2024 di Enrico Pagliarini. Sono le 15:37 minuti, bentornati a 2024. Oggi abbiamo il piacere di avere in regia Valeria Bernardi, che si occupa della parte tecnica. Il nostro numero verde per chiamarci, soprattutto nella seconda parte del nostro programma, più tardi, 824 0024. Parleremo del consumo energetico, degli strumenti di cui ci occupiamo spesso a 2024. Parliamo di elettronica, di consumo, e a proposito di consumo faremo un po' il punto della situazione. I don't think people have changed that much in thousands of years, and I think that they're still fundamentally. Non è partita una base a caso, questo è l'audio di un video che racconta cos'è Google Plus, un nuovo social network lanciato da Google e integrato nelle applicazioni messe a disposizione online da Google, come ad esempio la Gmail. L'idea che sta al centro di Google Plus, è quella delle cerchie di amici. Quindi le relazioni dentro al social network sono strutturate come nella vita reale. Abbiamo le cerchie di amici, alcune cose le diciamo ad una determinata cerchia di amici, altre no. Per il momento Google ha detto stop agli inviti per entrare in questo social network. Noi stiamo facendo alcuni esperimenti, alcune prove. Non sembra male, anche se la storia nel mondo dei social network di Facebook non è una storia di successi, perché pensate ad esempio a Buzz, che non è stato certo un grande progetto o comunque un grande successo. Vedremo se Google riuscirà in questo campo a fare un po' di concorrenza a Facebook. A proposito di social network, News Corporation ha venduto questa settimana MySpace all'agenzia di pubblicità online Specific Media per 35 milioni di dollari. Pensate che nel 2005 News Corporation aveva pagato MySpace 580 milioni. E in questo caso ha vinto al momento Facebook, e poi vedremo che cosa succederà nei prossimi anni. Cambiamo argomento. In questi giorni l'autorità per le comunicazioni è il bersaglio di un po' di persone, autorevoli giuristi, esperti della rete internet, giornalisti, blog e blogger, quotidiani, siti web, e nei giorni scorsi anche di un attacco informatico della rete Anonymous. Qual è il motivo? L'autorità guidata da Corrado Calabro è criticata per un provvedimento che punta alla rimozione dei contenuti che violano il diritto d'autore. Canzoni pirata o video rubati e poi pubblicati sul web, contenuti scaricati, siti che mettono a disposizione video o musica pirata, eccetera, eccetera. La riunione del Consiglio dell'Autorità è prevista per il 6 luglio e la sera prima a Roma è stata annunciata una mobilitazione contro un regolamento che alcuni temono possa avere derive censorie. È intervenuto più volte sul tema Juan Carlos De Martin, che è docente al Politecnico di Torino e direttore del Centro Ricerche Nexa su Internet e Società. Ma la preoccupazione è giustificata dal fatto che stiamo parlando dell'intervento di un'authority, quindi di un ente amministrativo, che avrà i poteri presto, se approverà questo provvedimento, per rimuovere o filtrare contenuti presenti su internet. Allora, questo è rilevante perché rimuovere, ordinare di rimuovere o filtrare contenuti è qualcosa di estremamente delicato, che parte dalla pirateria, ma in realtà va nell'ambito della libertà di espressione. E fino adesso in Italia e in realtà in tutti i paesi democratici questo tema è trattato da un giudice, quindi dal sistema giudiziario, con tutte le garanzie di contraddittorio e con tutte le garanzie del caso. Il fatto che sia un'entità amministrativa, tra l'altro con tempi molto ridotti, perché si parlano di tempi, prima una prima fase di 48 ore, poi una decisione entro 5 giorni, che lo faccia un'autorità amministrativa con tempi così ristretti, è fonte di preoccupazione. Ecco perché se ne parla così tanto in rete. Quando parliamo di contenuti e di diritto d'autore, stiamo parlando ad esempio di un video che magari io metto sul mio blog, oppure che metto su YouTube, oppure di una canzone, e faccio questa cosa non avendone il diritto, quindi non avendo o pagato il diritto d'autore oppure non avendo l'autorizzazione. Sì, gli scenari sono molto variabili. Gli scenari che l'industria, almeno parte dell'industria cinematografica, audiovisiva, cita è lo scenario eclatante, il sito pieno di film piratati, ma in realtà gli scenari possono essere molto più delicati e più raffinati. Potrebbe essere, per esempio, ho un blog e faccio vedere 30 secondi di un telegiornale a fine di critica o di discussione. Allora, sto utilizzando dei contenuti che sono della cui titolarità è del broadcaster che li ha trasmessi, ma lo faccio per finalità di critica e discussione che sono tutelati esplicitamente permessi dalla legge sul diritto d'autore. Adesso, fino ad oggi, un giudice poteva distinguere tra questi due casi. L'autorità è l'ente giusto per decidere, ha le competenze giuste per decidere questa distinzione? A proposito di esempi, prendiamo un sito internet famoso e che molte volte è stato citato anche per violazione del diritto d'autore, YouTube, che già attualmente ha una procedura per, diciamo, proteggere e garantire i detentori dei diritti. Potrebbe accadere, se questo provvedimento verrà approvato e se il provvedimento contiene quello che si pensa sia contenuto, perché attualmente non è pubblico, e anche questa è una delle critiche che viene mossa all'Authority, potrebbe succedere che addirittura YouTube venga oscurato, cioè si faccia in modo che non ci si possa accedere, oppure il provvedimento è di diverso tipo? No, allora potrebbero esserci dei contenuti specifici su YouTube che potrebbero essere soggetti di un ordine d'autorità di rimozione. Questo è sicuramente una delle possibilità. Tra l'altro, una delle basi giuridiche che ha messo in moto questo processo, forse la più rilevante, è il cosiddetto decreto Romani, che era il decreto di recepimento di una direttiva europea sui servizi audiovisivi e multimediali. Quindi il decreto Romani esplicitamente ordina all'autore di occuparsi della protezione del diritto d'autore per quello che riguarda i fornitori di contenuti audiovisivi, quindi da lì si parte, l'esempio è pertinente anche per quello. E questo potremmo dire è uno spunto di riflessione. Abbiamo tentato di intervistare il presidente dell'autorità per le comunicazioni, ma Corrado Calabrò ha preferito non parlare questa settimana e in una lettera pubblicata sulla Stampa scrive che sarebbe preferibile attendere di conoscere prima il testo. Si vedrà, osserva Calabrò, che molte ombre sono fugate e che qualcuno si è scagliato contro i mulini a vento. L'autorità, lo ricordiamo, si riunirà il 6 luglio e assicura che non ci sarà nessuna approvazione definitiva e si aprirà un periodo di consultazione pubblica. Speriamo che il periodo sia ampio, lungo e adeguato al tema, non una settimana o 15 giorni, soprattutto visto che è estate. Quello che vi facciamo oggi è un invito ad approfondire e a seguire questo dibattito in rete. Non abbiamo lo spazio per ospitare un dibattito su questo tema, che sarebbe importante, ma vi lascio con una domanda, visto che di domande ne sono state fatte molte, ne potremmo fare molte, ed è una domanda al mercato. Perché l'industria dei contenuti fatica ad offrire alternative legali e credibili alla pirateria in Italia? Detto in altro modo, perché ad esempio non c'è una cosa come Netflix, che negli Stati Uniti, pensate, per $8 al mese permette agli utenti americani di vedere un numero illimitato di film attraverso internet. A questo punto, con un'alternativa del genere, molti preferirebbero in modo molto più semplice fare questo abbonamento piuttosto che cercare altrove cose che certo sono fatte in modo illegale, ma dobbiamo anche pensare, abituarci, che molti sono tutto il giorno davanti a un computer, ormai quello è lo strumento che utilizzano per avere contenuti. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, riprendiamo tra un minuto. 2024. Riprendiamo parlando di Microsoft 365 o 365, un prodotto lanciato questa settimana in tutto il mondo, se ne è parlato molto, noi ne abbiamo parlato con Fabrizio Albergati, che è direttore del gruppo Information Worker di Microsoft Italia. È di fatto l'offerta di Microsoft attraverso la cloud di quelli che una volta erano i servizi enterprise di comunicazione e collaborazione di Microsoft, quindi la posta elettronica, la messaggistica istantanea, il document management, il document sharing, il Facebook aziendale, ovvero sia SharePoint, e anche Office, proprio nelle due versioni web apps, quindi erogato su un browser attraverso la rete o acquistato in modalità subscription, e quindi attraverso la rete io finalizzo l'acquisto, lo scarico sul mio PC e lo uso per un anno con un canone mensile che quindi mi permette di utilizzare in maniera più semplice questi servizi. Stiamo parlando di una soluzione, come si dice, in the cloud. Che cosa significa? Ma in the cloud vuol dire fondamentalmente che invece di avere, come dicevo, un server a casa mia, Questo server è un server virtuale che è ospitato da Microsoft nella rete, e in Europa in maniera particolare noi sappiamo esattamente dove sono i nostri dati, non sono nella cloud in maniera generica, sono o in Irlanda o in Olanda e ridondati sull'altro data center. Vuol dire che questi servizi vengono poi acceduti da parte degli utenti attraverso internet. Quindi io avrò una connessione internet, potrò utilizzare la mia posta elettronica, il server su cui sta la mia posta elettronica è nella cloud, cosa che chi utilizza i servizi consumer come Hotmail conosce molto bene, perché non è che uno ha il server di Hotmail a casa sua, accede a Hotmail nella cloud. La differenza è che questi sono servizi pensati per le aziende, quindi con una gestibilità da parte dell'azienda differente da quella ovviamente tipica per i prodotti consumer. Voi parlate di aziende, piccole, grandi, che tipo di aziende? Ah, da un utente, dal professionista che vuole avere un servizio appunto di tipo IT professionale, fino all'azienda da 60, 70, 80 mila dipendenti, come Coca-Cola Company, che è un nostro cliente, piuttosto non Starbucks negli Stati Uniti, per parlare di giganti che tutti conoscono. A me piace molto il concetto e anche la parola in the cloud quando si parla di cloud computing, ma giustamente Valeria Bernardi, che oggi è regia, dice tutti ne parlano ma nessuno sa cos'è. Allora, proprio per venire incontro a questa esigenza, che in effetti è vera, reale, la prossima settimana abbiamo preparato una puntata dedicata al cloud computing, anche perché da questa settimana andiamo più o meno in ferie, diciamo così. In realtà 2024 continua a offrirvi una mezz'ora di trasmissione di approfondimento alla settimana, sempre alle 15.30 il sabato nel pomeriggio di Radio 24. Quindi prossima settimana tutti in the cloud. Ricorderete che a febbraio Intel ed Apple avevano presentato una nuova connessione chiamata Thunderbolt, che in inglese significa fulmine. E già dal nome capiamo che parliamo di qualcosa che è veloce. Questa tecnologia serve infatti per trasferire dati da un computer ad una periferica alla velocità di 10 gigabit per secondo in due direzioni, quindi fanno 20, potremmo dire. Comunque 10 gigabit al secondo, il doppio rispetto alla USB 3.0. Tutti quelli che usano un computer conoscono le connessioni USB, almeno per nome, uno degli standard che si è diffuso di più in questi ultimi anni, ma sicuramente per il futuro serviranno nuove connessioni più veloci, perché nei nostri computer abbiamo una quantità sempre maggiore di dati. Ad esempio, vorremmo spostare un file da molti giga da un computer ad un hard disk esterno in pochi secondi. Un altro obiettivo dell'industria è quello di semplificare e ridurre le connessioni che oggi dobbiamo utilizzare. Basta guardare dietro a un computer per capire il caos che c'è. Thunderbolt, ad esempio, con gli opportuni adattatori può connettere periferiche USB 3.0, display HDMI, Gigabit Ethernet, SATA, FireWire, insomma PCI Express, un sacco di cose. Poche settimane fa, a proposito di semplificazione, è stata annunciata un'altra connessione che punta a sostituire il cavo HDMI, la connessione Ethernet, l'USB, nell'ambito dell'home entertainment. Si chiama DIVA, con due I, Digital Interactive Interface for Video and Audio. C'è un altro gruppo di lavoro, il PCI Special Interest Group, che ha presentato un nuovo tipo di connessione in grado di garantire velocità fino a 32 giga, pensate. Insomma, tutta l'industria sta andando in questa direzione, semplificare e aumentare la velocità delle nostre connessioni. Ma qual è il vincolo maggiore oggi? Una parola semplicissima, il rame, che ha dei limiti fisici alla quantità di dati che possiamo spostare. Allora, la fibra ottica può risolvere le nostre esigenze, ma visto che nella fibra ottica girano fotoni, mentre nei chip ci sono gli elettroni, ad un certo punto i due si devono incontrare, serve un traduttore che faccia dialogare i fotoni con gli elettroni. Ecco che cosa sta studiando il più grande produttore di semiconduttori e quindi di silicio, parliamo della Intel. Abbiamo incontrato Mario Paniccia, che è responsabile del laboratorio di fotonica a Intel a Santa Clara in California. The goal here of Photonics Lab is to bring high bandwidth, low cost optical connectivity to every device in the future. L'obiettivo per il futuro è portare connessioni ottiche a larghissima banda, ma a basso costo, su ogni strumento. Pensate alla possibilità di avere una piccola fibra collegata con il vostro computer portatile o il vostro smartphone, con la quale potete trasferire dati, film o qualsiasi altro contenuto. Move data, move movies, content around, simply like by plugging in a fiber to these devices. Senta, ad oggi perché ancora non si usano le fibre ottiche per questo tipo di connessioni? Main limitation today for photonics has been the cost. Il più grande limite della fotonica oggi è il costo. La fotonica viene utilizzata prevalentemente nelle telecomunicazioni e noi stiamo cercando di portare il silicio nella fotonica ed è quello che chiamiamo silicon photonics. And so we've tried to bring silicon to the photonics industry and we call it silicon photonics or siliconizing photonics. E così come nell'industria dei semiconduttori siamo capaci di integrare un numero sempre maggiore di transistor, stiamo cercando di fare la stessa cosa, cioè riusciremo a produrre tecnologia ottica con i volumi e i costi tipici dell'industria del silicio. Computer e server, dice Paniccia, perché queste connessioni sono appunto destinate ad entrambe queste categorie. Potremmo dire che state progettando un nuovo tipo di USB? Think about your laptop and today you have USB which connects peripheries or devices. Beh, pensate al vostro computer portatile. Oggi avete l'USB per connettere le varie periferiche. Noi stiamo guardando alla generazione del futuro. We're looking at a future generation che probabilmente si chiamerà in un altro modo. It may be called something else. We've announced Thunderbolt. Abbiamo appena annunciato Thunderbolt come un esempio di una connessione a 10 gigabits. But in the future at 20, 25, 50 gigabits per second. Ma nel futuro per connessioni a 20, 25 o 50 giga utilizzeremo connessioni ottiche. There'll be a transition to optical. E non manca molto tempo, o uno, due, tre anni per vedere cose di questo tipo. L'industria sta lavorando. Abbiamo sentito la voce di Mario Paniccia, responsabile del laboratorio di fotonica di Intel a Santa Clara in California. Una cosa che non ho tradotto è quando ho detto siliconizing photonics. Se avete delle idee per tradurre in modo elegante in italiano questo termine bellissimo che fa capire molto bene quello che sta accadendo, beh, potete scriverci alla nostra email. Tra poco parliamo di consumo energetico degli apparecchi elettronici, potete chiamarci al nostro numero verde, sarà con noi Gianfranco Giardina, 800 24 00 24. 2024. Seconda parte di 2024, vi ricordo il nostro numero verde per parlare con noi tra poco di consumo energetico degli apparecchi elettronici di cui parliamo spesso, 824 00 24. Tra le domande che ci sono arrivate, ad esempio, ma non avevo dubbi che questa era una delle domande da mettere in lista, consuma di più il plasma o consuma di più l'LCD? Non è detto che quello che queste le leggende che girano siano corrette ed esatte. Saluto Gianfranco Giardina, che è responsabile del magazine digitale D-Day.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille Enrico, ben trovati a tutti gli ascoltatori. Oggi ti sentiamo al telefono ed è un po' strano perché di solito sei sempre qui a fianco a me, oggi ci intendiamo anche a gesti, oggi dobbiamo intenderci con gli SMS oppure con i sistemi di messaggistica in tempo reale. Noi parliamo di elettronica di consumo, questo è un termine che non è legato naturalmente ai consumi energetici, però questo è un tema di cui si discute e mi pare, ma chiedo a te, che anche l'industria discuta sempre più spesso, cioè c'è sempre maggior interesse al di là dei regolamenti che si fanno sempre più stringenti. Questo assolutamente sì, anche se ovviamente, come dice giustamente, elettronica di consumo non si riferisce al consumo elettrico, ma tutti questi apparecchi hanno un consumo elettrico, perché ovviamente è nella loro stessa natura. C'è molta più attenzione e ci deve essere, dico, anche perché la tragedia di Fukushima, le scelte che anche la nostra nazione ha preso con il recente referendum di non ricorrere all'energia nucleare, che è quella che sembrerebbe essere più a portata di mano, ovviamente ci pone di fronte alla scelta di comunque avere una politica anche di risparmio energetico oppure di cambiare radicalmente il nostro stile di vita. Siccome il nostro stile di vita non mi sembra che nessuno voglia cambiarlo, il risparmio energetico è per forza nell'agenda di tutti, dalle famiglie e chiaramente anche ai produttori. Avere, cioè proporre al mercato un prodotto a risparmio energetico diventa non soltanto una cosa assolutamente interessante dal punto di vista sociale, ma un buon modo per differenziare il proprio prodotto e renderlo più appetibile per le famiglie, anche perché è sotto gli occhi di tutti il fatto che poi la bolletta energetica degli italiani sia, ahimè, in aumento e quindi bisogna guardare con attenzione a questo aspetto. E sicuramente dall'elettronica potrebbero, anzi stanno già arrivando delle sorprese molto interessanti, insomma un buon aiuto per consumare meno. Di questo parliamo tra poco, quindi vi aspettiamo con le vostre domande al nostro numero verde 800 24 00 24. Adesso parliamo due minuti di radio, tema naturalmente che ci sta particolarmente a cuore. Abbiamo parlato altre volte degli apparecchi che si collegano ad internet tramite cavo wifi, quindi sintonizzatori. Queste radio permettono di sintonizzare migliaia di emittenti che trasmettono via internet in tutto il mondo, anche Radio 24, oppure ascoltare i podcast di trasmissioni come 2024. Con questi apparecchi si può fare tutto molto semplicemente, molto facilmente. Esistono poi altri apparecchi che, oltre naturalmente all'FM, sintonizzano i nuovi canali radio digitali con tecnologia DAB+. Si tratta di una tecnologia di cui si discute ormai da più di 20 anni, che corrisponde, giusto per farci capire, al digitale terrestre della TV, ma qui stiamo parlando di radio. Bene, alcuni moderni sintonizzatori possono ricevere tutti e tre i sistemi di distribuzione: radio analogica FM, AM, radio digitale via internet, radio digitale DAB. Uno di questi apparecchi è stato presentato questa settimana a Milano ed è un modello di un'azienda inglese che si chiama Pure. Giorgio Guana è il responsabile per l'Italia di Pure. Beh, diciamo che abbiamo presentato Sensia, che è la prima radio al mondo da vedere, nel senso che è il primo esempio di radio ibrida che riceve informazioni sia dal FM RDS tradizionale, ma anche dalla radio digitale, che quindi è il DAB Plus, evoluzione del DAB, e da internet. Queste tre modi di ricevere il segnale vengono a essere miscelati per una nuova esperienza di fruizione, dove il consumatore può essere sintonizzato sulla radio FM preferita e vedere le immagini che arrivano sul suo account di Facebook, oppure può ascoltare della musica in digitale con le immagini delle vacanze, oppure semplicemente può andare su internet, selezionare la musica di suo gradimento e raccoglierla da qualunque emittente in giro per il mondo. Diciamo che tutte queste fruizioni innovative, che creano una nuova esperienza di ascolto ma soprattutto di utilizzo, hanno bisogno logicamente di un'interfaccia di tipo evoluto. Sensia ha un touchscreen grande da 7 pollici con tutte le informazioni, che per il mercato italiano è preferibile avere in lingua italiana. Pure ha lanciato anche un portale musicale che si chiama The Lounge. Metteremo un link sul nostro sito internet, anche perché attraverso questo portale si può ascoltare ad esempio il podcast di 2024, tra le tante cose che si possono sentire. Dunque, prima di chiudere questo capitolo sul DAB vanno dette due cose. La prima è che alcune radio DAB acquistate all'estero o da siti che inviano in Italia da alcuni paesi europei, come fa ad esempio Amazon, potrebbero non funzionare nel nostro paese. Uno potrebbe dire: vabbè, ma non ci sono le trasmissioni. In realtà alcune trasmissioni ci sono in via ancora purtroppo sperimentale, ma non è colpa nostra, non è colpa degli editori radiofonici, nelle principali città. E qui viene la seconda cosa che volevo dire, che purtroppo il Ministero dello Sviluppo Economico non ha ancora assegnato le frequenze per la radio digitale, quindi gli editori radiofonici trasmettono in alcune grandi città, ma senza purtroppo certezze che sono necessarie per realizzare una rete nazionale o le reti locali. Siamo qui ad aspettare, speriamo che il Ministero si dia una svegliata. Dunque, naturalmente dobbiamo aspettare anche che finisca il processo di digitalizzazione della TV, però, dicevo, è da 20 anni che si parla di DAB e il rischio, insomma, è che poi non si faccia nulla o comunque non ci siano le certezze per fare le cose. Adesso ci colleghiamo con Palermo, dove c'è Maria Chiara Grandis. Ciao Maria Chiara. Ciao Enrico, buon pomeriggio. Dunque, tu ti trovi in un punto vendita che è, diciamo, il punto finale di una, non è proprio una passeggiata, di un percorso che tu hai fatto in giro per l'Italia alla scoperta della tecnologia, soprattutto alla scoperta di come i consumatori si avvicinano alla tecnologia. Dunque, chi hai incontrato oggi? Dunque, noi siamo qui oggi al punto vendita Expert, gruppo Papino a Palermo, l'hai detto, e parliamo anche noi di risparmio energetico. Volevo dirti subito che è un tema che coinvolge molto sia i consumatori da un lato, sia i produttori dall'altro. Certo, l'interesse comincia a crescere anche per esempio per il consumo dei TV, ma anche dei computer. I prodotti che garantiscono elevata efficienza energetica a volte sono più costosi, ci dicono, però c'è chi è disposto a spendere anche di più per avere un risparmio in bolletta garantito, anche se a volte, questo dobbiamo dirlo, questo risparmio è un po' difficile da quantificare. Allora abbiamo fatto un giro nei vari reparti di questo punto vendita e ti faccio sentire le voci che abbiamo raccolto. Lei sta guardando dei PC, dei notebook. sa che anche per quanto riguarda i computer bisogna stare attenti al risparmio energetico? Sì, certamente. Secondo lei il TV consuma molto? No, non penso. Diciamo che il computer di casa è quasi sempre acceso. Ma lei quando acquista un prodotto guarda la tabella del consumo energetico? Sì, da un po' di anni sì. Con questo comportamento ha notato un risparmio? A fine anno probabilmente sì, ma non lo riscontro relativamente, insomma. E quindi siete anche disposti a spendere di più per avere un prodotto che poi risparmia, oppure secondo voi non è molto conveniente? Se la differenza non è molta, compriamo quello che ci offre migliori garanzie per risparmio. C'è sempre un equilibrio da rispettare naturalmente tra costi e anche consumo energetico, e anche di questo parleremo tra poco con Gianfranco Giardina. Vi aspettiamo al nostro numero verde oppure anche via email 2024@radio24.it o Facebook, cercate la nostra pagina scrivendo appunto 2024. Ci risentiamo tra un minuto. 2024. Stiamo parlando di consumo energetico, di cose che ormai popolano la nostra casa, il nostro salotto, le nostre cucine, anche i nostri uffici. Gianfranco Giardina è con noi. Voi in laboratorio a dday.it fate molte prove. Stiamo parlando fondamentalmente di watt, di kilowatt. Di cosa stiamo parlando, Gianfranco? Allora, qualche volta si fa confusione su questi termini. Diciamo che la potenza impegnata da un apparecchio è normalmente misurata in watt. I watt sono quelli che siamo abituati a vedere anche sulle lampadine, no? La classica lampadina è da 100 watt, è la potenza impegnata. Se noi lasciamo una lampadina da 100 watt accesa per un'ora, consumeremo un'energia di 100 watt ora, no? E quindi ecco questo suffisso del kilowattora, che trasforma praticamente la potenza in energia, vuol dire che quella potenza è stata impegnata per un'ora. Quindi un ferro da stiro che consuma un kilowatt, per esempio, cioè che è sbagliato dire che consuma, che impegna una potenza di un kilowatt, se lo usiamo per un'ora, ecco che ci fa consumare un'energia elettrica di un kilowattora. Ecco la differenza tra watt e wattora, quindi kilo sta per mille, più né meno. Questo per avere un ordine di grandezza. Quello che noi paghiamo in bolletta sono i kilowattora, quindi che hanno costi variabili a seconda delle tariffe, a seconda dell'orario. Sappiamo che adesso sono attive anche le tariffe biorarie, a seconda della quantità di kilowattora che consumiamo nel periodo, quindi sono prezzi differenziati, diciamo che andiamo dai 0,12 fino ai 0,20, 22 euro per kilowattora. Senti, in generale stiamo parlando di cose che consumano molto poco, perché c'è qualche ascoltatore che dice vabbè, ma parliamo di cose che fondamentalmente non incidono molto sulla bolletta energetica, cioè sono ben altre cose che incidono, quindi non dobbiamo preoccuparci più di tanto. Ma assolutamente no, perché non è tanto il consumo istantaneo che è quello che è importante. Per esempio, se io prendessi un phone, che è una delle cose che consuma di più in casa, consuma molto ma per i pochi minuti in cui mi asciugo i capelli. Invece è alla durata del funzionamento. Sentivo prima tra le interviste chi diceva che tiene il computer acceso praticamente tutto il giorno. Ecco, un computer, per esempio un desktop, può avere un consumo in funzione, quando è in funzione è tra i 100, 150, anche 200 watt. Se noi pensiamo che 200 watt, adesso faccio un esempio assurdo, ma per esempio chi scarica molto da internet spesso lascia il computer acceso anche di notte. Ecco, se noi pensiamo per esempio un computer di 200 watt, di lasciarlo acceso giorno e notte per un anno, il costo sulla nostra bolletta sarebbe di circa 2 euro per ogni watt impegnato, quindi diciamo 400 euro all'anno. 400 euro all'anno rischia di essere il prezzo del computer. Quindi attenzione a dire che tanto, insomma, alla fine consuma poco, e conta anche chiaramente la durata nella quale io tengo l'apparecchio acceso. Apparecchi che consumano molto ma accesi per molto poco tempo sono molto meno rilevanti di quanto può essere per esempio un decoder poco economico che magari tiene impegnato 4, 5, 6 watt quando è acceso, ma anche quando è spento, perché in realtà non si spegne veramente, e quindi costa 12-15 euro l'anno di corrente elettrica. Quando andiamo a comprare, oppure quando siamo davanti a un computer e acquistiamo online, abbiamo effettivamente da questo punto di vista una scelta? Perché se parliamo di altre qualità dei prodotti di elettronica di consumo, ci sono mille varianti, mille variabili. In questo caso C'è una effettiva scelta o purtroppo le categorie consumano più o meno tot? Cioè un computer consuma così, una TV consumerà un po' meno, un po' di più da un modello all'altro, però fondamentalmente la differenza è poca, o invece no? Ma ci sono delle differenze in alcuni classi di prodotto anche molto sostanziali. In alcuni casi, parlo per i grandi elettrodomestici e da adesso, dai prossimi mesi anche per i TV, ci vengono in aiuto le etichette energetiche, già le abbiamo conosciute per molto tempo proprio sui grandi elettrodomestici, sono state ulteriormente perfezionate dalla Commissione europea e entrano in vigore adesso con un sacco di dati aggiuntivi che ci danno indicazioni ancora migliori. Per esempio non solo ci dicono qual è il consumo in generale, ma ci dicono proprio quanto sarebbe il consumo annuo per un utilizzo medio. Quindi già facendo questo possiamo tranquillamente vedere, no, quanti kilowattora all'anno l'apparecchio consuma, ovviamente in un utilizzo medio. Facendo dei confronti tra apparecchi risulta abbastanza semplice. Noi sappiamo, l'abbiamo detto, potremmo dire che un kilowattora costa 0,15, ecco, moltiplicando 0,15 per il kilowattora che troviamo sull'etichetta energetica possiamo sapere anche qual è il costo di gestione elettrica di quell'apparecchio. Parlando di consumi, per gli apparecchi di lavaggio citerei anche l'acqua, che incominciamo a capire che non è più gratis o una cosa o quasi simile. Quindi sì. Ci sono sulle etichette energetiche nuove anche i consumi idrici per la biancheria e lavapiatti. Dicevo l'etichetta energetica per i TV, che è una bella novità, che anche questa arriva adesso, e intanto ci dice una cosa: se lo stand by è assolutamente basso, cioè trascurabile. Uno stand by trascurabile si pensa a uno stand by a 0,1 watt circa, che ripetendo sempre la logica della regola mnemonica che dicevamo prima, 0,1 watt sempre acceso giorno e notte equivale circa a una spesa di 20 cent all'anno, quindi un qualcosa di assolutamente contenuto. Ormai tutti i TV, o quasi tutti i TV delle grandi marche, sicuramente tutti, hanno degli stand-by assolutamente contenuti. Non è così vero magari per i prodotti di qualche anno fa. Quindi anche qui, quando fino a qualche anno fa non c'era una grande attenzione al consumo energetico, sono stati lanciati dei prodotti che funzionano egregiamente, magari funzionano ancora egregiamente a casa dei propri possessori, ma che consumano molto. Delle volte si pensa, sì, vabbè, io non cambio l'apparecchio adesso perché tanto funziona ancora bene, però magari facendo due conti ci si accorge che solo l'energia elettrica l'apparecchio nuovo ce lo si ripaga in 2-3 anni, e in alcuni casi, cioè, questo non è importante soltanto per risparmio energetico, ma anche per il fatto che si gode normalmente di una migliore qualità, sì, o di migliori performance. Dunque, proprio su questo punto direi, vedo dall'indicazione che ho sul mio monitor, vorrebbe intervenire Anna Maria, che ci telefona dalla provincia di Caserta. Da Caserta, sì. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Io stavo ascoltando, a parte che vi ascolto sempre, perché siccome dite delle cose giuste, delle cose sensate, d'altronde dobbiamo tutti quanti tornare come una volta a risparmiare, ma esatto, non a risparmiare per quei pochi soldi che uno risparmia, ma a risparmiare tutti quanti, perché se risparmiamo tutti quanti, penso che è un fatto bene per tutti. Esatto, infatti Gianfranco Giardino lo diceva quando lavoravo in ufficio. Lei, signora, però voleva parlare di digitale terrestre, di una cosa del genere. Sì, il digitale terrestre la lucina verde più l'altra lucina rossa, e quelle non le puoi spegnere, perché i primi tempi io non sapevo, quando finivo di vedere la televisione toglievo la spina. Poi domandai al numero verde, dice no, quelli devono restare accese, quindi la radio sveglia non la puoi spegnere. Sì. Cioè alcune cose non ne puoi fare a meno. Lei ha toccato un punto interessante, perché se si spengono queste cose, lei parla di decoder, giusto? Il decoder, sì. Esatto, esatto. Anna Maria, la ringrazio per averci chiamato, perché lei tocca un punto importante, e vorrei girare la domanda a Gianfranco Giardina. In effetti alcune cose, Gianfranco, si parla spesso dello stand-by, tu ci hai detto che i nuovi strumenti consumano veramente poco, però se uno ha uno strumento magari un po' vecchio, una soluzione che viene consigliata è quella di spegnere o staccare la spina, ma in alcuni casi, a parte che è un po' complicato staccare magari la spina perché non c'è l'interruttore che è più comodo, ma dicevo, in alcuni casi c'è proprio un problema di funzionamento del decoder, nel senso che se uno lo spegne magari il decoder non fa la sintonia automatica, tutta una serie di problemi. Gianfranco. Allora, i decoder sono una categoria di prodotto particolarmente sfortunata da questo punto di vista, perché storicamente i produttori non hanno posto una grande attenzione nel risparmio energetico, partendo forse dal presupposto che tanto un decoder consuma qualche watt, cioè o meglio impegna una potenza di qualche watt, 5, 6, 7, 10, diciamo che i decoder che impegnano più potenza arrivano fino a 17-18 watt. Quindi qualcuno pensa, beh, rispetto a un TV che ne consuma 150, rispetto a un phone che ne consuma 1000, cosa vuoi che siano 15 watt? In realtà il problema qual è dei decoder? Che non si spengono mai, cioè normalmente il decoder quando viene messo in stand-by semplicemente cambia il colore della lucetta, ma resta assolutamente acceso, questo l'abbiamo detto molte volte, ma continuiamo a ripeterlo perché continuo a trovare persone che non lo sanno. Questo perché? Perché di notte normalmente a una certa ora il decoder cerca se ci sono degli aggiornamenti del firmware del decoder stesso e fa eventualmente una nuova scansione dei canali per provare se ci sono nuovi canali, questo per far sì che l'esperienza di utilizzo da parte dell'utente sia assolutamente la migliore, la più semplice possibile. Questa semplicità però la si paga, e la si paga abbastanza caro, contando che se anche il solo si parla di 5 watt, no, che funzionano giorno e notte, sono 10 euro, devo dire veramente buttati via, buttati al vento, di corrente elettrica che ogni anno ogni utente spende. Allora, qui il punto qual è? Avere un minimo di cultura tecnologica, quel poco che basta per sapere che ogni tanto al decoder bisogna fare l'aggiornamento dei canali e cercare se c'è un aggiornamento firmware. Queste operazioni possono essere fatte manualmente dal menu. Quindi nessun problema se la si fa mensilmente, bimestralmente, ecco, una cosa di questo tipo, oppure quando non si vede più un canale che si vede, quindi che si vedeva prima, quindi quando si vuole risintonizzare, ma nel frattempo spegnere il decoder, che vuol dire normalmente staccare la spina o più semplicemente avere una ciabatta di quelle col pulsante che permettono di interrompere tutta la linea, oppure ancora avere qualcosa di più sofisticato, esistono delle ciabatte, diciamo, che con un telecomando o qualcosa di simile permettono di interrompere completamente la relazione di corrente. Certo, poi bisogna dire, ma su questo ti sollecito tra poco, che se poi la ciabatta costa 15 o 20 euro bisogna discuterne. Sono le 16:28 minuti, adesso ci colleghiamo con Maria Chiara Grandis a Palermo, perché tu hai parlato anche con il direttore del punto vendita. Sì, Enrico, non solo, perché per saperne di più sul consumo energetico di prodotti anche come smartphone, tablet e PC, siamo passati dal reparto informatico e sentirete i consigli che ci hanno dato per utilizzare questi prodotti al meglio. Come dicevi, abbiamo intervistato anche il direttore di questo punto vendita, che lo ricordiamo è il punto vendita Expert Gruppo Papino, oggi siamo a Palermo. Il direttore si chiama Vincenzo Patti e gli abbiamo chiesto quanto i produttori investono sul risparmio energetico e poi se oggi i consumatori sono realmente informati su questo aspetto. Allora sentiamo le interviste. Adesso sì, parecchio. Prima erano disinformati, ora con la pubblicità, con l'informazione un po' anche via internet, questo va crescendo sempre di più e in punto vendita ci chiedono sempre più informazioni. A tuo parere i produttori fanno attenzione al risparmio energetico? C'è un interesse crescente? Allora, moltissimo, perché si vede già anche dalle campagne pubblicitarie, dalla segnalazione anche sullo stesso prodotto come pubblicità corner, vediamo che c'è molta informazione. Proprio per questo il cliente sta continuando sempre più a chiederci informazioni sulle classi energetiche, risparmio l'ambiente. Nunzio Conigliaro, tu sei un addetto alla vendita del reparto informatico. Sì. Qualche consiglio? Cosa spegniamo quando usciamo di casa? Ma sicuramente il router innanzitutto, perché è inutile tenerli accesi dato che non si utilizzano, e poi evitare anche di lasciare per esempio i TV in stand-by, perché comunque anche quelli possono avere, o i monitor in stand-by, comunque possono in qualche modo incidere sui costi reali di energia elettrica. Smartphone e tablet, anche per loro si può parlare di risparmio energetico? In certe occasioni sì, in altre no. Ci sono lo smartphone, essendo un telefono intelligente, per certi versi con le dovute applicazioni può andare in stand-by e quindi disattivare tutti i propri dispositivi affinché la batteria si possa conservare più a lungo e quindi consumare meno. E il tablet? Lo stesso, fa lo stesso. Importanza, insomma, in caso di non utilizzo, insomma, metterlo in funzione in modalità standby onde evitare di continuare a tenerlo sotto carica. I famosi caricabatterie vanno sempre staccati? Ci sono altri accorgimenti che possiamo utilizzare? Assolutamente sì. Quando, per esempio, teniamo un computer, un notebook fermo sulla scrivania facente funzione desktop, è utile togliere la batteria e lasciare solo esclusivamente l'alimentazione quando si va a lavorare. Quando finisce il tutto basta staccare via la spina e quindi così si preserva sia lo stesso funzionamento del caricabatteria da eventuali picchi di tensione e sia lo stesso integrità della batteria. Quando il PC è spento dobbiamo togliere l'alimentatore? Assolutamente sì. Qual è il rischio? L'alimentazione stessa e quindi la possibilità di un picco di tensione che possa andare a inficiare il reale funzionamento dei connettori elettrici. Quindi non è solo una questione di risparmio energetico ma anche di funzionamento corretto di un apparecchio. Chiaramente l'apparecchio deve essere funzionante e restare funzionante in tutti i suoi parametri giusto quando lo dobbiamo utilizzare e non quando siamo fuori casa e quindi lasciarlo lì inutilmente acceso. Adesso per noi c'è una breve pausa, la pubblicità riprendiamo tra qualche minuto. 2024. Quanto consumano le cose che ormai popolano le nostre case, i nostri salotti? Abbiamo più volte detto, anche perché poco fa lo ha ricordato il commesso che Maria Chiara Grandis ha intervistato, un consiglio è quello di spegnere le cose che in alcuni casi sono in stand-by. Volevo chiedere a Gianfranco Giardina, sempre comunque questo è un consiglio utile, certo nei casi che tu ci hai citato con strumenti che consumano veramente poco, 20 centesimi all'anno, forse è un consiglio che possiamo saltare, ma vale in generale per le altre cose? Ma non sempre, un utilizzo corretto è la cosa migliore. Faccio un esempio subito, il PC, che è una delle cose che consuma poi molto perché viene lasciato acceso anche per molto tempo. Quanto è comodo poter navigare in internet al volo alla minima esigenza che c'è, anche per levarsi una curiosità, però ci vuole il computer acceso. Ecco, un computer oramai moderno, diciamo attuale, con i sistemi operativi attuali, messo in stand-by, quindi che sembra assolutamente spento ma non lo è, consuma veramente pochi watt, 5, 6, 7 watt. Acceso ne consuma 150, tanto per fare un esempio, dando degli ordini di grandezza. Lasciare acceso il computer anche quando non lo uso, semplicemente perché voglio avere la comodità assoluta di accedere a internet e a vedere una cosa nell'istante in cui mi serve, è francamente un comportamento non intelligente. Molto meglio metterlo in stand-by, la riaccensione dallo stand-by è istantanea, no? E quindi avere questa modalità di comportamento, per esempio, permette di risparmiare molti soldi senza avere nessun decremento della propria esperienza d'utilizzo. Negli Stati Uniti sono diffusi dei pulsanti da mettere sulle scrivanie di molti lavoratori che, per esempio, quando fanno una telefonata o interrompono per qualche minuto il loro lavoro al computer, posso premere questo pulsante e il computer si mette in stand-by. Si può fare anche col mouse, ovviamente, ma col pulsante è più immediato. In questo modo, non appena uno si alza dalla scrivania, schiaccia il pulsante e il computer va in modalità di basso consumo, altrimenti resta in funzione. Un'altra cosa che sicuramente va guardata per quello che riguarda per esempio gli alimentatori, quindi tutti i caricabatterie che abbiamo, è vedere se questi, quando sono attaccati alla corrente, ma per esempio non stanno ricaricando nulla, se scaldano. È chiaro che se consumano dell'energia elettrica semplicemente perché sono un po' inefficienti, perché il trasformatore non è perfettamente isolato o perché proprio ci sono delle perdite di questo tipo, quell'energia elettrica che viene consumata si deve trasformare in calore. Quindi tutti gli apparecchi che quando sono spenti o in stand-by, diciamo così, scaldano e scaldano molto, ecco, sono apparecchi che non sono molto attenti dal punto di vista energetico. Quelli magari vanno staccati, ma tutti quelli che restano molto freddi, tanto per intendere, vuol dire che sono già ottimizzati e lasciarli attaccati alla corrente è un comportamento che non ha grosse influenze sulla bolletta. Quindi anche qui avere comportamenti più consapevoli, semplicemente, non prendere e staccare tutto, ecco, perché questo sarebbe ovviamente molto scomodo. Senti, in 3 minuti circa, la domanda che molti attendono, che molti hanno fatto, consuma di più il plasma o l'LCD? Allora, è una domanda che una trasmissione è molto complessa. Una trasmissione intera dovremmo fare. Intera. Comunque sì, in linea di massima, il TV LCD consuma in maniera uniforme quando funziona, a prescindere dal tipo di immagine che sta visualizzando sul proprio schermo. Un TV al plasma, invece, è come se accendesse delle micro lampadine, semplifico per farmi capire, e consuma di più se l'immagine è molto luminosa e meno se l'immagine è scura. Quindi se io faccio vedere uno schermo bianco con la massima luminosità, ecco, porterò al plasma i massimi consumi. Quando noi vediamo le etichette, questo riguarda tutti i prodotti, non soltanto i TV, quando guardiamo le etichette che sono poste dietro l'apparecchio, normalmente ci dicono il consumo, o meglio la potenza impegnata da quell'apparecchio, quindi 100, 200, 150 watt, è un'indicazione di potenza impegnata massima, che serve per dimensionare la linea elettrica, per sapere che posso attaccarla a quella linea, che non salterà la luce, eccetera, eccetera. Ma non è il vero e proprio consumo nella fase di utilizzo. Per un plasma sarà riportata la potenza massima, ed ecco qui che vediamo dei plasma che riportano 400 watt. Magari perché se io nel momento in cui visualizzo l'immagine più luminosa possibile, il plasma sta consumando 400 watt. Un LCD consuma sicuramente meno del plasma che visualizza l'immagine bianca, ma consuma sempre, a prescindere dal fatto che venga visualizzata per esempio un'immagine nera, o comunque consuma mediamente, diciamo in maniera mediamente più uniforme. Il plasma invece può abbassare moltissimo i propri consumi se visualizzo un'immagine nera. Quindi nella pratica reale è sbagliato dire che un plasma consumi di più di un LCD, visto che esistono dei plasma che consumano meno di alcuni LCD. Poi nella media gli LCD, soprattutto con la retroilluminazione LED, sono arrivati a dei livelli di consumo anche inferiori ai 100 watt su pollicciaggi da 40 pollici, quindi schermi che cominciano già a essere grandi, e quindi possono essere considerati leggermente più risparmiosi, sì, permettetemi di dire, ma stiamo parlando di differenze non così rilevanti da determinare la scelta d'acquisto. Ecco, mi verrebbe da dire, dopo aver sentito questa spiegazione, che devo dire avevo sentito già da te uno o due anni fa, anche se oggi le tecnologie sono cambiate, mi verrebbe da dire che più o meno il consumo è uguale, visto che insomma, quando poi uno guarda le immagini, ci saranno le immagini scure e quelle un po' più chiare, quindi hai ragione nel dire che non va preso questo come parametro per scegliere. Io ringrazio Gianfranco Giardina per essere stato con noi. Visto che questa è l'ultima puntata della stagione, non l'ultima puntata di 2024, perché come vi ho detto poco fa continueremo anche durante l'estate con trasmissioni di mezz'ora tra le 15.30 e le 16, volevo ringraziare Gianfranco Giardina perché oltre alla competenza che tutti gli riconoscono, ha anche la passione che mette nel proprio mestiere, nel proprio lavoro, nella propria professione, che è un requisito fondamentale per tutti, però noi siamo forse fortunati perché facciamo anche un mestiere insomma, che unisce la nostra passione con le competenze, quando ci sono le competenze, ma con Gianfranco Giardina andiamo sul sicuro. Gianfranco, buone vacanze, però a metà dell'estate però ti disturbo. Vabbè, tanto ormai con smartphone, cellulari, siamo sempre raggiungibili, tracciabili, poi io uso anche Foursquare, quindi potrai scoprire dove sei, dove sono, quindi non c'è problema. Va bene, grazie a Gianfranco Giardina e ricordo, e grazie anche a tutta la redazione di dday.it, che vi ricordo, insomma, proseguono, non vanno in ferie o comunque ci vanno scaglionati, quindi è sempre un punto di riferimento molto importante per la tecnologia. Ci colleghiamo con Palermo, Maria Chiara Grandis, per questo ultimo collegamento, anche in questo caso della stagione, dopo che tu ti sei fatta praticamente tutta l'Italia, quasi tutte le regioni, no, non proprio tutte, però isole comprese, come si dice nel caso, Maria Chiara. Eh sì Enrico, infatti oggi siamo a Palermo, siamo al punto vendita Expert Gruppo Papino e per concludere noi possiamo dire per quanto riguarda il consumo energetico che l'interesse dei consumatori cresce anche nella grande distribuzione e cresce anche per i prodotti di elettronica di consumo, non solo più per i grandi elettrodomestici. E allora i consumatori che abbiamo incontrato qui a questo punto vendita abbiamo chiesto di raccontarci come si organizzano a casa per risparmiare energia e allora sentiamo le interviste che ci hanno rilasciato. Carica batteria si devono staccare perché rimangono sempre accesi. E lei lo fa? Certo, Le lucette stand-by anche sono un consumo di luce che alle volte non si calcola, però poi te le ritrovi in bolletta. Invece la connessione internet? ADSL con un router normale. Lo spegne quando esce di casa? Sì, la sera più che altro. I ragazzi il computer, i ragazzi la televisione, i ragazzi i giochi. Ma li spengono quando non li usano? Sì, no. Come fa lei in casa a risparmiare energia? La ciabatta che spegne tutto. E a proposito, oggi ho fatto un'eccezione, l'ho lasciata accesa, l'hai spenta tu. Ho sbagliato. Si sente in colpa adesso? No, vabbè, in colpa. Vabbè, una volta tanto si può fare. Avete sentito, ci sono alcuni luoghi comuni che Gianfranco Giardina ha cercato di chiarire, che sono duri a scomparire, e ci sono invece anche alcuni consumatori che hanno chiaro il modo, l'abitudine per consumare meno. Ad esempio quella della ciabatta è sicuramente una soluzione intelligente, anche perché un ascoltatore oggi ci ha chiamato dicendo: ma ci sono molti strumenti che non hanno più i pulsanti per essere spenti, quindi in questo caso la ciabatta che si può accendere, attivare o disattivare è sicuramente molto utile. Però una cosa che diciamo spesso 2024, quando si ristruttura casa o quando si progetta una casa, non sarebbe male pensare ad esempio a delle ciabatte, dico così per semplificare, integrate nei muri, quindi degli interruttori che si possono attivare o disattivare. In questo modo si creano anche meno problemi di fili che girano per la casa. Concludiamo questa edizione di 2024 con un appuntamento che abbiamo proposto in alcune delle nostre puntate assieme a National Geographic, tra poco. 2024. Ultima parte di 2024, oggi torna l'appuntamento in collaborazione con National Geographic, canale 403 della piattaforma Sky. Oggi parliamo di demolizioni, di mega demolizioni, partendo da una diga che ha fornito energia all'Oregon nel nord-ovest degli Stati Uniti per circa 100 anni ed è stata demolita tra il 2007 e il 2008. La diga Marmot serve il nord-ovest degli Stati Uniti da quasi 100 anni. Ora un team di esperti la manderà in pensione. Fuoco in buca! Avranno solo 4 mesi per demolire 22.000 tonnellate di calcestruzzo e acciaio e rimuovere 800.000 metri cubi di sabbia, ghiaia e pietra, permettendo a 2 specie minacciate di salmone di tornare ai loro luoghi di riproduzione. Per riuscirci bisognerà eseguire un piano mai tentato prima. La scienza e la tecnologia del XXI secolo cercheranno di intercettare la tempesta perfetta, senza che nessuno si faccia male. In America c'è una lunga tradizione in demolizioni, ma anche in Europa e in Italia cresce l'esigenza di demolire il vecchio per costruire il nuovo. In un territorio che ormai non può sopportare nuove costruzioni, forse quella della sostituzione delle vecchie strutture sarà uno dei passaggi obbligati per realizzare nuove costruzioni. Come stanno le cose nel nostro paese? Danilo Coppe è presidente dell'Istituto Ricerche Esplosivistiche di Parma e titolare della SIAG, una società specializzata in demolizioni. Ma è già direi una decina d'anni abbondanti, anche 15, che le demolizioni con esplosivi hanno, come dire, assunto un ruolo abbastanza consolidato. Chiaramente gli Stati Uniti hanno iniziato da un secolo a farle, quindi la tradizione là è sicuramente più sentita, più abitudinaria. Da noi rappresenta ancora un evento eccezionale, seppur, come ho detto, quei 10 interventi all'anno oramai sono abbastanza cronici. C'è da dire che siamo una nazione un po' strana, perché è una delle pochissime realtà mondiali in cui a volte la demolizione con l'esplosivo non è concorrenziale, anche su edifici di altezza elevata, rispetto alla demolizione meccanica. Ma questo non è un problema che siamo cari noi bombaroli, ma sono troppo a buon mercato i demolitori meccanici. Questo può essere dipeso anche dal fatto che con la crisi nel settore dell'edilizia tutti coloro che avevano mezzi meccanici adibiti alla movimentazione di terra o macerie si sono, come dire, inventati demolitori, e quindi proliferando tanta concorrenza i prezzi poi sono calati. Senta, negli ultimi anni si dice spesso, ascoltiamo molti allarmi che ci dicono stiamo cementando tutta l'Italia. La demolizione, quindi la ricostruzione in luoghi dove già si era costruito è vista come una soluzione? Lei che cosa percepisce? No, io percepisco, girando il mondo, percepisco che noi in Italia siamo i più riottosi a demolire, per cui le città hanno sempre più bisogno di allargarsi, spesso perché non c'è volontà di fare un po' di posto sul preesistente. È chiaro che bisogna tenere d'occhio quello che viene demolito. Io sono un fautore della preservazione delle archeologie industriali e anche delle architetture particolari, però le assicuro che anche recentemente mi sto trovando a dover demolire una struttura degli anni 50 orripilante, case popolari proprio senza nessun pregio architettonico, e anche in questo caso la sovrintendenza ci ha messo quasi 6 mesi per dire ok, demolitelo. Quindi un po' abbiamo la burocrazia che ostacola e un po' c'è questa mania di tenere su gli edifici finché non crollano da soli. Non le ho ancora chiesto, e a questo punto le vorrei chiedere, come si demolisce con l'esplosivo? Può sembrare semplice, si mette qualche cannelotto di dinamite qua e là e le cose vengono giù. In realtà le cose immagino che siano molto molto complesse. Assolutamente, in effetti c'è questo luogo comune errato nel pensare che l'esplosivista entra nell'edificio poche ore prima del suo crollo, piazza 2 candelotti qua e là, esce e tutto è finito. In realtà c'è un lavoro mostruoso dietro. Le dicevo prima, le accennavo alla burocrazia, io passo 2/3 del mio tempo a fare carte per poi trascorrere 1/3 del mio tempo nell'abbattere, quindi c'è un processo estenuante dovuto anche a leggi che risalgono agli anni 30 e quindi è difficile interpretarle anche per gli uffici competenti. E dopodiché c'è da fare sempre in Italia più che in altri paesi esteri, c'è sempre da fare i conti con l'ambiente circostante. Noi ogni angolo di città abbiamo un muro tutelato dalle belle arti, una chiesa storica affrescata, abbiamo manufatti sempre molto antichi che sono inclini a mal sopportare le vibrazioni, per cui seppur l'esplosivo le fa tanto come un mezzo meccanico di grosso tonnellaggio, comunque c'è questa diffidenza nel pensare che con gli esplosivi si creino terremoti e quindi che possano compromettere la stabilità delle strutture a fianco. Quindi abbiamo da una parte la burocrazia, dall'altra l'attenzione per l'ambiente e poi c'è il calcolo strutturale, cioè capire dove mettere l'esplosivo il meno possibile per ottenere il collasso della struttura. Che tipo di esplosivo viene utilizzato? Ma lo citava lei, la dinamite, che è il mio esplosivo preferito fra i tanti esplosivi che sono a disposizione dei tecnici civili, è l'esplosivo più sincero, quello che tu lo metti e sai esattamente che cosa rompe, quanto ne serve per rompere quel pilastro, quella trave in cemento armato. Stiamo parlando di cose molto costose o poco costose? La dinamite quanto costa? La dinamite costa una manciata di euro al chilo, quindi non è sicuramente il prezzo dell'esplosivo quello che fa la differenza. Quindi laddove non si è proprio sicuri magari ci si mette un candelotto in più. Sì, anche se poi bisogna fare i conti con gli effetti collaterali degli esplosivi, che sono per esempio il cosiddetto spostamento d'aria, le vibrazioni di cui parlavamo prima o il lancio di detriti. Questi sono gli effetti collaterali che più esplosivo metti e più rischi di dover fare i conti con effetti collaterali indesiderati. Abbiamo citato gli Stati Uniti, in quali altri paesi si demolisce appena si può? Ma anche in Inghilterra direi, cioè la cultura anglosassone in generale reputa che un edificio quando ha fatto 25 o 30 anni di vita sia ritenibile obsoleto, perché poi le spese per il mantenimento degli standard di abitabilità sono superiori a volte che non la demolizione e la ricostruzione con criteri più moderni. E così concludiamo questa puntata di 2024, concludiamo anche l'appuntamento e la collaborazione con National Geographic per questa stagione. Grazie come sempre a tutti voi che ci avete seguito, che avete scaricato il file MP3 della nostra trasmissione. Si conclude la stagione ufficiale, quindi il nostro appuntamento settimanale di 1:30 tra le 15:30 e le 17 il sabato nel pomeriggio, ma continuiamo naturalmente per tutta l'estate a offrirvi approfondimenti. La prossima settimana ci occupiamo di cloud computing, una trasmissione proprio dedicata a quello, in onda il sabato tra le 15.30 e le 16. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci risentiamo tra 7 giorni. 2024. 31 seconds.